no molo gi yo si jayada Kawama kobita waparo jatelo Kiyumana donjo Nairobi midhiambo Kasi nende rwaka gidi na jaone Wakumana rwaka gidi na jaone Awino moru sana nyagidani orito elo Tielo wapari gisolo Awani koda josi jagwasi jayada Nizomino tielo wapari gisolo Awani koda josi jagwasi jayada Tielo wapari gisolo Kawani kora josi jagwasi jayada Omino mora morsana wapara josi majaturwa Omino mora morsana wapara josi majaturwa